Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno di nuovo a tutte e tutti, siamo sempre su Liberi Dentro Eduradio, oggi è martedì 13 luglio e bentornati sempre con il nostro programma che fa da ponte tra carcere e città. Io sono Caterina Bombarda, alla conduzione di questo programma, e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Antonella, di cosa ci parli? Di cosa iniziamo oggi? Oggi cominciamo con il nostro crowdfunding. Vi ringraziamo perché siete stati generosissimi. Stiamo andando molto bene e addirittura abbiamo un obiettivo successivo, quello di coprire anche le trasmissioni del mese di settembre. Quindi continuate a stare con noi e continuate a alimentare il nostro crowdfunding. Grazie. Sempre su ideaginger.it cercando Eduradio e TV. Allora, oggi vi leggo dal redattore sociale una notizia che riguarda il nostro carcere bolognese della Dozza. Il titolo è: nel carcere della Dozza apre il nido, sindacati divisi, necessario o rischioso, firma di Ambra Notari. Perché per il SINAPPE, il sindacato, nessun bambino dovrebbe andare in carcere, hanno detto, ma arrivano comunque, quindi è giusto allora accoglierli in maniera adeguata, quindi costruendo un nido. Difatti ancora, e nonostante l'annata del Covid, per la FPCGL, la Dozza, il carcere della Dozza, è sovraffollato. Mancano gli spazi, la struttura è in continua sofferenza e inoltre sono ancora bloccati i fondi ministeriali per l'accoglienza delle detenute madri in case protette, un tema di cui abbiamo lungamente parlato sempre su Liberi Dentro Eduradio. Tuttavia questa sembra un'iniziativa comunque che merita un plauso. È proprio vero, e infatti è anche quello che scrivono in una nota Antonio Fellone, segretario nazionale del SINAPPE, Anna Lamarca e Nicola D'Amore, che sono vice segretari, dopo la visita alla Dozza per conoscere lo stato d'avanzamento dei lavori per la realizzazione di questo nido all'interno della sezione femminile. Hanno detto: siamo convinti che nessun bambino dovrebbe varcare il cancello di un carcere per restarvi assieme a un adulto, ma bisogna ammettere che in questi spazi c'è stata un'attenzione alla cura dei particolari che merita un plauso. Nella nota, che è stata indirizzata alla direttrice del carcere Claudia Clementi, hanno inoltre aggiunto di aver notato come sia stato creato un ambiente, come dire, casalingo, ricco di comfort, sicurezza anche per l'incolumità dei minori che saranno ospitati. Questo dall'uso dei colori vari, soft, tenui, l'accessori, la cucina comune che è molto funzionale, anche la camera dei giochi. E nella suddetta nota il sindacato autonomo ha inoltre aggiunto: non condividiamo posizioni ostative all'apertura del nido, ma siamo convinti che se il legislatore ha disciplinato la materia, la polizia penitenziaria non può che eseguire al meglio delle proprie potenzialità. Però ci sono state anche delle criticità sull'apertura, no? Sì, effettivamente dubbi sull'apertura del nido nella sezione femminile sono stati espressi sempre di nuovo dalla FPCGL. E il motivo qual è? È la preoccupazione per gli spazi, che sono comunque molto ristretti. Il sovraffollamento, dicevo all'inizio, è un problema costante, e con l'apertura del nido gli spazi sono destinati a ridursi ulteriormente. Non solo, la struttura, a fronte di un sacrosanto adeguamento alle procedure necessarie, è comunque obsoleta e già in sofferenza da anni. E per questo la FPGGL chiede che questa scelta venga approfondita perché possa funzionare davvero e non rimanere solo sulla carta. E oltretutto spinge molto sull'apertura delle case famiglia per madri detenute, che quelle sarebbero proprio le strutture adatte per ospitare madri con bambini. Proprio così. Senti, ma sul piano dei finanziamenti? Guarda, quello è un problema perché i finanziamenti, dicevo, sono bloccati. Nei giorni scorsi Carla Garlatti, che è la Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, in una nota al Ministro della Giustizia e al Ministero dell'Economia ha chiesto di sbloccare quanto prima i 4,5 milioni di euro per accogliere i genitori detenuti con i bambini in case di famiglia protette e in case alloggio. A oggi questo è il provvedimento necessario per finanziare questa predisposizione. Occorre procedere per l'adozione quanto prima del provvedimento per evitare l'ingresso di sempre più bambini piccoli con mamme. Non è quello il posto giusto, diciamo. Caterina, chi ci fa ascoltare oggi? Ho sbirciato dalla tua scaletta che hai tirato fuori una canzone bellissima che hanno cantato poi in molti. Che ci presenti? Bob Marley, l'avete già ascoltata, Redemption Song, è uno dei brani più famosi, anno 1980, è molto lontana dal reggae questa canzone ancora, ed è un grande inno alla libertà di pensiero, libertà spirituale, libertà nel senso più ampio possibile. Ascoltatela. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. E ben ritrovati, sempre con noi su Liberi Dentro Duradio, con te Antonella. Il nostro sguardo alla cultura, diciamo, al mondo, a tutte le notizie che riguardano in qualche modo non soltanto il carcere, oggi parlano di sport, vero? Sì, oggi parliamo di sport e del figlio del vento. E quelli che hanno più o meno la mia età si ricorderanno di questo personaggio veramente che ci ha fatto sognare, che ha vinto 10 medaglie olimpiche, delle quali 9 d'oro e una d'argento in 4 edizioni delle Olimpiadi. Ha anche vinto 8 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo in 4 campionati di atletica leggera. E Caterina, forse tu non hai avuto il piacere di vederlo all'opera, di vederlo in movimento, ma stiamo parlando di Carl Lewis, che ha compiuto 60 anni a luglio, i primi di luglio. E è un ex atleta statunitense, velocista e saltatore, è considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Nel 1984, alle Olimpiadi di Los Angeles, a soli 23 anni, con quell'aria un po' spavalda che aveva, scrisse una pagina indelebile nella storia dell'atletica leggera. Dopo 48 anni dalle imprese del leggendario Jesse Owens, nelle Olimpiadi di Berlino del 36 davanti ad Adolf Hitler, un altro atleta, cioè lui proprio, Carl Lewis, è riuscito ad eguagliare il primato di vincere 4 medaglie d'oro nelle discipline principali dell'atletica, che sono i 100 metri, i 200 metri, salto in lungo e staffetta 4%. E da quel momento è stato definito il figlio del vento. E allora bisogna che tu ci racconti la sua storia. Sì, Caterina, lui in realtà è figlio d'arte, eh? Nasce da William ed Evelyn, che sono entrambi atleti, infatti facevano parte della squadra universitaria. Tu sai quanto sia importante in America partecipare ad essere parte di un'università quando si è atleti, e infatti anche la madre, per dire, partecipò alle Olimpiadi del 1952 negli 80 metri ad ostacoli. In ogni caso, i genitori portavano questo ragazzino nel club di atletica leggera che avevano fondato, non avendo una babysitter, come tutti noi che abbiamo portato i figli al parchetto, loro li portavano a giocare nella fossa di sabbia della pedana del salto in lungo. Quindi diciamo che lui è cresciuto nell'ambiente giusto. Poi comunque, insomma, è stata una carriera non sempre facilissima, e poi pensate, avere due genitori così, due atleti, cioè effettivamente ci si misura già con l'eccellenza. Comunque il carattere a Carl Lewis non è mancato, e già nel 1975, a soli 14 anni, era considerato il miglior saltatore in lungo dello stato del New Jersey. E quindi prometteva molto bene, e decise tra l'altro di iscriversi all'Ice Houston University, proprio perché c'era un allenatore di atletica molto bravo, Tom Tellez. Comunque, siamo nel periodo della Guerra Fredda, 1980, il presidente Jimmy Carter decide di boicottare i giochi, e quindi il nostro Carl Lewis non va alle Olimpiadi di Mosca. Era già entrato però nella qualificazione, quindi sarebbe stato sicuramente dello staff. Però dopo poco, nel 1983, partecipa ai campionati del mondo di Helsinki e conquista 3 medaglie d'oro. L'anno seguente, Olimpiadi di Los Angeles, Carl Lewis conferma la sua grandezza. Come vi dicevo, 4 medaglie d'oro, e nessuno sembrava in grado di avvicinarsi alle sue prestazioni, tranne un individuo che si afferma e si chiama Ben Johnson. Sbaglio o in tutto questo c'era anche una storia di doping? Non sbaglia affatto, Caterina, è stato il discorso che abbiamo affrontato negli anni 80, nel 1988, quando i due si affrontarono nelle finali dei 100 metri alle Olimpiadi di Seoul, e vinse Ben Johnson con il tempo strepitoso di 9,78. In realtà poi dopo fu anche condannato però per doping, quindi insomma la vittoria tornò a Carl Lewis, si riprese la gloria, e vi leggo soltanto una frase che dichiarò: ho scoperto che un atleta non ha bisogno di proteine animali per essere un atleta di successo. Infatti il mio migliore anno nelle competizioni di atletica leggera è stata quando mi sono convertito al veganesimo. Quindi alla fine Carl Lewis è diventato pure vegano. Un'ottima scoperta. Antonella, stacco virtuoso e poi quale musica? Allora, dopo lo stacco virtuoso continuiamo a ascoltare Rocky Traoré con la canzone Lai Do. Liberi Dentro e Duradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. L'associazione Il Podeschi per il Carcere di Bologna ha preso parte al progetto Eduradio Liberi Dentro attraverso la partecipazione a 3 diversi laboratori. Liberation Prison Project è con Eduradio per parlare di buddismo, per condividere esperienze di liberazione dalla mente, la nostra vera prigione. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui insieme a Stefano Cavallini, ex presidente del Giallo Dozza, la squadra di rugby del carcere. Via con la pillola. Quindi a livello di istituzione, diciamo, tu hai trovato un terreno fertile con chiaramente delle, diciamo, resistenze, potremmo dire, culturali in alcuni casi, come è normale che sia, però generalmente comunque, cioè, possiamo dire che hai avuto, diciamo, come dire, la strada aperta, se non altro, a proporre a proporvi e ad iniziare questo percorso in generale. Devo dire che sì, è proprio così, hai ragione. Devo dire che è stata sensibilità reciproca, nel senso che noi capivamo che eravamo un organismo estraneo. E quindi era evidente che dalla parte che deve garantire per legge, per proprio compito, l'ordine all'interno del carcere, noi potevamo essere un elemento che disturbava. Per cui ci siamo, come dire, annusati, ci siamo fidanzati, abbiamo visto se la cosa poteva andare avanti e a questo punto devo dire che la cosa sta andando avanti. Al punto che c'è stato un periodo in cui a Bologna venivano giovani agenti che facevano il tirocinio e grazie all'insegnante, che è un ispettore, noi incontravamo questi giovani agenti e gli raccontavamo la nostra esperienza. Come dire, c'era la disponibilità da parte dello staff della polizia di raccontare questo fatto come un elemento che andava a costituire anche la loro formazione. E quindi uno sforzo grande di formazione del personale che coincide con quello che stabilisce la nostra Costituzione, insomma, che chiaro, sì, sì, pena sì. Ha anche il carattere di recuperare i detenuti e quindi qua il compito degli agenti è assolutamente importante. Chiaro, chiaro. Questa è un po' la risposta alla tua domanda, che è stata una cosa molto delicata, perché fare i prepotenti lì dentro non serve, insomma, ce ne sono tanti. Non ti porta da nessuna parte. Ma tu hai notato qualche tipo di evoluzione nei ragazzi nel momento in cui cominciavano proprio ad approcciarsi allo sport, al rugby e attraverso proprio la pratica sportiva? Hai notato un'evoluzione in loro da parte di tutti, da parte di qualcuno? Come è andata in linea generale? Devo dire che abbiamo, insieme con lo staff degli educatori e con il provveditorato, abbiamo stabilito alcuni indici che vanno a misurare l'effetto di questo progetto. Il nostro progetto si chiama Tornare in Campo, no? Perché poi quando questi qua, noi ci chiamiamo Giallo, forse non lo sapete, ma ci chiamiamo Giallo. Giallo, sì, sì, sì. Perché il cartellino che tu dai al giocatore che viola le regole e che va su una panchina, il sin bin, come dicono in Inghilterra, e ci sta 10 minuti. Sono 10 minuti di punizione. Nella loro vita non sono 10 minuti, ma sono anni. Quando tornano in campo dopo la panchina, insomma, hanno riflettuto, hanno capito probabilmente. Quando tornano fuori dal carcere, se non hanno capito, è un grosso casino. Il fatto che invece gli indici siano positivi, e poi vi spiego cosa sono, ci spinge a dire che sta funzionando. Adesso invece è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo prestissimo. face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... Quali sono? Il primo indice è che sono calate verticalmente le punizioni nella vita reclusa, cioè i provvedimenti disciplinari che vengono presi perché uno si ribella, uno è insolente, alza la voce o fa rissa o litiga, sono crollati verticalmente, non ce n'è più. I nostri ragazzi sono immuni da questo punto di vista. C'è qualche eccezione ogni tanto, ma perché prevale la loro esperienza precedente. Un dato ottimo, diciamo. Cioè, sono dati concreti che dimostrano l'efficacia di questo... Secondo elemento, voi sapete che in Italia la recidiva è molto alta. La gente esce, non è accolta, anzi, più volte ha stampato sulla fronte ex detenuto. La recidiva è vicino all'80%. Noi, da che abbiamo iniziato questa attività e abbiamo gestito circa 300 giovani, non abbiamo avuto recidive. Che noi sappiamo non ci sono state recidive, salvo una subito all'inizio, per il medesimo reato. Okay. L'ultimo elemento, che è il più recente, è che il 9 marzo dell'anno scorso c'è stata la rivolta nelle carceri e c'è stata la rivolta anche a Bologna, e i detenuti del rugby, che sono insieme agli studenti universitari, non hanno partecipato alla rivolta, seppure tutto il blocco dove loro sono ospiti detenuti ha partecipato alla rivolta. E quindi voglio dire che hanno difeso il loro reparto comprendendo che era una scelta sbagliata. Anche per oggi il nostro intervento termina qui. Torneremo presto con nuovi aggiornamenti da chi vive, per chi vive il carcere. Se avete qualsiasi domanda potete scriverci su Facebook o su Instagram al canale Liberi Dentro Eduradio. A presto, ciao a tutti. Dopo le parole di Stefano Cavallini del Giallo Dozza Bologna Rugby, noi ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento a tra poco con le rubriche. Oggi parliamo di Dove avremo l'altro diritto. E vi ricordo, scriveteci redazione Liberi Dentro @gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mamolo 2 40136 Bologna, il nostro indirizzo postale. Ringrazio Enea Flacco il montaggio di queste puntate, Antonella Cortese qui con me in redazione, ma soprattutto voi ascoltatori e ascoltatrici. E mi raccomando, seguiteci e noi ci rivediamo domani sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.